Thank you.

Ci ha fatto una realtà dell'albero, la metà degli affiori che quello fai, avrei fatto un anno. proprio mi sono misurato ieri sabato. No, non è che è venuto, prima devo venire, lì è venuto. È passato l'officina, ha detto, vieni, andiamo, ti faccio vedere dentro. E casa mia è 200, dove c'è l'antenna e il tetto, poi aggiungere altri 10 metri, è 272 metri. Thank you. veloce, migliore. Perché se poi avete proprio di passare il cammino, perché Thank you. volume, quindi ma si trova ancora a volume. No, non ti preoccupare. Vabbè, mi sembra per l'età di 93 anni quasi, quindi. Ma dico, è molto recente allora. No, ma già da quanti anni? C'è circa una decina di anni, sono di più. Scusa, poi mi dicevo che fosse, cioè, prima di tutto vorrei che non ero sicuro che fosse deceduto, però pensavo che fosse, se fosse morto, fosse morto da appena pochissimo, No, no, assolutamente. Adesso in gestione ce l'abbia un pochino, non hanno più attività perché effettivamente mio padre è morito, non è andato in pensione, quindi a me non mi interessava avere attività e niente, quindi non lo lasciano fare, non è andato a gestionarlo qui. Perché se è venuto lo Icaro, insomma non è che sta perdendo così tanto, Sì, lo so, purtroppo adesso la crisi c'è, ma io ho visto sempre, chi era quello, c'è la mano, mi confermi anche tuo babbo, dire. Sì, mio padre era barista. Sì, quello che c'è nelle cose, tra le rubriche, diciamo, fuori quello di Gallia. Posso neanche io, dimmi. Scusate, mi sono distratto, c'era la seconda tragedia, eccetera. Non so se hai visto il Paolo Gallini, le caricature, le hai mai visto il libro? Qualche cosa ho visto, ma non tanto. E c'è questo mule grosso, vedo piazza Dolce Martino, che dovrebbe essere questo che stai dicendo tuo nonno. Sì. Che vedeva anche vino, così così, cioè faceva, io lo conosco di nome, non sono mai andato, so dov'è, voglio dire il nome perché non meglio non dirlo, ecco, è come in una salita dietro a dove è un monte, così non diceva i particolari, e ti sto parlando di quella persona. Sì, è quello, guarda, posso dire che tu se hai visto, non aveva tanti capelli che andavano a barba, un po' di capelli bianchi. E allora stavo dicendo la stessa persona, perché c'era la vita di volume, dopo da un ragazzino me lo conosco. Allora, che io sappia, quella casa l'hanno fatta sia mio padre che alcuni frattori, non lo so però, quindi non so come ha fatto la cartina, il padre e l'appartamento di suo mio cantore Bianchi, da lì poi ha fatto l'attività, perché prima ancora erano in pianura, prima di aprile. Ma dico, ti dico, la villa dove c'è attualmente, quanti anni ci sarà? Almeno una trentina d'anni? Di più, guarda, io sono nato nel 70 e quando sono nato avevo già l'attività lì. Vabbè, forse volevo dire qualcosa di più, perché adesso sto pensando che io immagino che ho 58 anni, per cui stiamo dicendo 40 anni, non 30 anni, 40 anni. No, anche di più, vorrebbe. Calma, Antonio, a te il mic. Sì. Giuso come lo so pizzino quanto è te, metti, che quanti anni c'hai tu, Anto? 37 anni. Vabbè, non ho figli così grandi, no, mia figlia deve fare 25, stavo dicendo oggi, ma c'è quanto meno, non pensavo fossi più giovane, Anto. No, negativo, tempo passa. Io del 70, sei tu. Sì, sono del 70, 51. Cappa, non credi sono vecchiotto io rispetto a voi, siete ragazzini, dai. Come ragazzini? L'altro giorno ho fatto il vaccino venerdì, sabato ero là, credimi, io non ho mai fatto tanti di quello, mai come sabato e stamattina più o meno. Non faccio il nome di una persona che si sente qua qualche volta, è meglio non fare il nome, stavo parlando, eccetera, eccetera, con il tuo discorso, c'è una voce un po' grandicella, io pensavo fosse più grande della vita effettiva che mi ha detto, e io sono anziano, certe cose non riesco più a farle, è pesante. Alberto, scusa, ma quanti anni c'hai? 64 anni, ricca, che 64 anni uno è anziano. Ma penso che ho fatto gli anni fatti più 64 stesso. Sì, ma uno, cioè, se c'è un po' di vitalità, certo si fa le cose che facevi a 20 anni, però cacchio, dice no, non ce la faccio, io sono vecchio, qua, là, se ti consideri già vecchio a 64, quando hai 70, 75, cosa sei, è mummia, è decrepito. Posso capire, stai dicendo, Io ormai sono 58 anni, ma dentro mi sento giovane, almeno certe cose mi preoccupano, non posso fare, anche io domani c'è tutto il lavoro, il dottore della inzita, quando ho messo il diploma, stavo fascettando e coso, e domani ero tutto acido lattico, le gambe per come ero il contratto, ma dove volevi, cacchio, fate la gente, babbo, non riuscivo a capire come mai, poi perché ero qua, con i muscoli in tensione, inclinato, eccetera, e ho tutto il lavoro, per dire, 4, 5, 10 anni fa, te ne giocavi qualcosa, adesso te ne però non mi sento ancora nella fase calante. Guarda, sai qualcosa, perché ultimamente Thank you. hai fatto anche strada in macchina. Vedete, la strada è divisa in due, cioè la parte nord si è un ristrano, la parte sud la fanno, che loro vedevano sino a un ristrano, esattamente a mettere, hanno fatto una linea per poi andare, come ti posso dire, che cacchio c'è, Santiago da Muro, questi così lontani, proprio dalla parte opposta della, di Sassari, cioè, che c'è stato in più. Devi partire la mattina presto, partire la sera, ti prepari tutto il materiale e poi torni anche la sera tardi, perché fai anche 3 ore di macchina, poi da lì devi consegnare da Santiago da Muro, ci devi uscire dall'altra parte apposta, sempre correnti. Infatti ogni tanto qualche incidente, speriamo non succeda ormai, dice qualcuno si sbatte poi anche per la stanchezza, perché assurdi. Niente così, sono andate nemmeno corre in frecce. No, guarda, io ti vorrei parlare, ecco perché è capitato anche a me, io prima che chiudesse la mia azienda, che ero con mio padrino, diciamo che volevo cambiare il progetto, perché economicamente non andava niente, mi passava tutto proprio lavorare e studiare abbastanza, però forse un trucco, come si suol dire, il trucco, volevo cambiare, posso farci, volevo cambiare datore di lavoro. Ma perché? Perché vedevo che se ne stava approfittando di quello che facevo io, cioè per dire, lo facevo due giornate, però per dire, facevo venerdì e sabato, perché il sabato a me lo pagava normale, ma così incassavo dalle 15 alle 18.000 euro, se lavoravo anche il sabato, capito? E lì lavoravo un po' come se ne stava approfittando lei, cioè mica lavorare il sabato dove volevo lei, giuro. Bravo, appunto. Fare i conti di quelli che lavorano a Zimbabwe. Cioè, io avrei fatto 2+2 e l'altro che volevo fare in quello era stato lunedì, ancora. Cioè, non mi conveniva entrambe le cose, per lavoro e per fare male, saranno. Ma io tira, facciamo una convenienza ora. Allora, contando, non mi farò più bene al mese, compro il treno che stanno facendo in mezzo di ore, stanno facendo, sono 5 euro il treno. 5 euro? Poi 3 euro quanto, ma sono venuti a casa mia 3 anni fa due rumeni, qua da Mostri lavorando, io faccio l'artigiano e mi dicono se uno vuole lavorare, non le mandano, mi sono spaventato, non mi ha tritto un armadio e la cucina, quello che posso dire, in 3 ore, si sono messi, una velocità, sono messo tutta la roba interna, tutte le viti, tutto ordinato, hanno cominciato a arrastrare questi qua, io sono rimasto a bocca aperta. E c'era, non è che c'era un coso, un bicchiere d'acqua, aspetta, spiegato, va bene, ma fame ce l'avete, ha fatto anche quello. E loro mi vediamo così, dobbiamo prendere, veloci, veloci, non abbiamo neanche il tempo di mangiarci un panino, non vogliono andare, non so se assiniscono le chiese, non vogliono andare e non so cosa vogliono consegnare, ma cose assurde. Ho detto, ma come cacchio fate? Ci servono i soldi, noi dobbiamo lavorare perché sono rimaniamo senza mangiare. Una cosa mai vista, lavorando con una velocità qui. Sì, per questo loro, non so perché ci lavorano, loro entravano alle notte, io ero mai al mattino, e io facevo lo stesso partito, loro rimanevano qui, perché il problema è, si caricavano nella mia, che poi cosa succede? Che loro, dicono delle stupidaggini, la cucina non può stare, però si caricano tutta la cucina. Se tu hai finito, per dire, fate finito, te ne vai, non è che ti danno lavoro da fare, perché loro ci vedono come entri, se tu fai, la cucina è un qualche di fare, per dire, è quello che, ma devi farlo, devi venire in fretta, se no ce la fai, non ci stai con i tempi, hai capito? Loro entrano, loro partivano ovunque, alle 5, esagerando, io proprio esagerando, le 9, alle 5 e mezza, nei Caraibi. Sì, certo, ma questi non hanno orario, se questi sono Santiago da Muro, devono consegnare alle 4 del pomeriggio, arrivano per 3, se tu stai lavorando poi, quando è vendo te ne dormi, ma tu l'hai anche alle 10, vedo, controllo, certe volte anche alle 10. Beh, ascolta, non vedi che un lavoratore di Calcio, ma non dovrebbe stare, almeno per loro che stare, gli attacchi per prossimi, hanno una certa, cioè posso, posso mettermi la batteria normale oppure ci vuole la batteria più piccola per, come si dice, per alimentarli? No, guarda, se non alimentati La 12800 prova, non ce n'è nessun problema, c'è un rilevatore di tensione, e altrimenti alla linea c'è l'interruttore 12-1, tu ti prendi l'acqua che è presa, l'acqua che è paforiera, ti prendi il caldo, tu metti il potere, non c'è nessun problema, tanto l'assorbimento è minimo di queste cose. Sì, non ci credo più, ma tu vedi, cosa dovrebbe fare? C'è bisogno di un padello con pratica, con tutto sì, di quella cosa che metti fuori dal forno, che passi si accende un rilevatore elettrico, però l'interno, poi lo smontate l'interno, è una batteria tipo, non so, un coppia, però sarà un filo, diciamo, va messo intorno alla cappa, una cosa del genere, già presente. Ma quando tu stai parlando di backup può essere bisogno di capito, stai parlando di quelli che hanno il crepuscolare, il sensore di movimento, perché quelli c'hanno, ci sono pure i pannelli solari, quello che pannello solare, di quello stai parlando, non ho capito. No, io ti ho parlato prima della backup USB, perché si creano problemi mentre la batteria non la messa in marcia. Secondo me è quello un discorso a parte che mi ha fatto confermare lui, va bene. Quindi te lo faccio un altro paragone. Sì, bianco un attimo. Appunto, quel faro lì proprio a titolare, quella la batteria da tre pulsi, la tre pulsi è come collegato praticamente la batteria da tre pulsi, prima attaccata la batteria 12 pulsi, per far sì che dal pannello solare carichi la batteria e va più portata, capito? Seconda domanda, ma questo qua, questo pannello, allora come si chiama? Questo faretto che stai dicendo tu, a quanti volte è alimentato? Allora, questo in teoria era un pannello comprato da Amaco, l'ho svoltato, hanno svoltato tutta la batteria che era, credo, da 3 volts, però non ho misurato, era una batteria piccola, ingenuamente non l'ho fatto, gli ho attaccato 12 volts. E non si è bruciato. Ecco poi cosa, niente di che. Infatti mi sembrava strano perché ho detto, insomma i pannelli solari non è che la temperatura, quella temperatura, la tensione nominale potrebbe ottenere non arriva a 12 volt. Con la batteria piccolina da campione deve essere per tenere la crepuscolare, cioè per quando la notte ti dà un po' di energia necessità per eccitare il comando del crepuscolare, che quando emette il crepuscolare il sensore in movimento. Ecco, però anche un accumulatore, cioè nel senso che rimane acceso, la temperatura acceso molto bassa, rimane accesa, si accende e quindi l'energia la prende da quella batteria lì. Ok, la batteria è un accumulatore a tampone, ma non ha il sensore in movimento, ti rimane fissa, c'è il sole crepuscolare, tu la mattina quando inizia a fare luce si spegne automaticamente, oppure c'hai i pannelli notte, tutto lo spento, ti avvicini e si accende, che tipo di sistema c'è? Entrambi, si accende quando cade il sole e si mette, diciamo, in stand-by, quindi non è una luce fortissima, però è un po' accesa, ti fa vedere dove mettere i piedi, quando passi si illumina un po' di più. Quindi c'è anche il sensore di movimento. E tu l'hai letto 12 volte, l'hai fulminato. Arrostito, sì. Perché ho detto, no, secondo me quello qua non lo conviene farlo per gli altri, perché praticamente è perché hanno comprato delle batterie grandi, grandi non so quanto, immaginate un coso 20x20, ok? 20x20x20. Loro hanno questa, sono quelle batterie che mettono all'interno dei locali per, che ne so, per uffici di emergenza, una cosa del genere. E queste cose qua le mettono con dei paletti così, quindi non hanno un po' di più queste luci accese, e le accendono. Praticamente ti metti un riduttore di tensione, poi ti devi mettere questi paletti. Diciamo, come devi mettere io due grandi e tre piccoli. Ci sono le riduttori di tensione, vengono anche da GBC, sono anche abbastanza economici, sono regolabili la tensione, la porti da 12-48, però ci sarà scritto dietro, normalmente saranno 6 volt queste cose qua alimentate. Va bene, adesso la prova l'ho fatto così perché sono scherziato, non l'ho mai fatta. Ma perché calcola che lì appena luce solare il pannello magari ti dà 12 volte e mezzo, ma quando c'è appena di foschia scende parecchio, poi c'è una caduta di tensione molto elevata, loro per quel motivo li alimentano con la batteria da tampone, con l'accumulatore secondo me non sarà più di 6 volte. Ecco perché ti ho chiesto se Brevi se anche le PAC USB avevano quel problema che si mettendo per dire una batteria che ne so, 14 volte loro la crepano. non cedere un altro, soltanto devi prendere un'altra e può essermi a 12 volte, alimentato a 12 volte, perché poi ci sono altre che può essermi anche a 2,20, a 48, a 24, sono tante cose. Deve avere, come ci avete detto, che quelli a 12 volte hanno un positivo negativo, mentre quelli a 2,20 c'è il positivo ortologico e non succede niente. E questo che ha preso. Che prima facciano entrare, non ti fanno entrare. Vai a Santa Teresa, no, lei deve parcheggiare capiva del paese, all'ingresso del paese, vai a, a Corso, perché si chiama Dorgali, devi chiamare perché c'è lì fuori, a Calabano Leine, invece alla fine stai diventando una cosa inutile, devi stare molto lontano, ma che non ti porti la motoretta, le biciclette e cose, ma andavo sempre a Calabano Beotto, di lì, entravo, c'era la binetta lì, ma tutto quanto, no, l'anno scorso niente, non si può più entrare in campo, non possono più entrare, per obbligarti ad andare nei campi, ci sta diventando una cosa molto fastidiosa.